dunque voi, Don Alonso, non conoscete affatto? Affatto. Ah, certo, il conte lo mandò. Qualche gran tradimento si prepara. Io poi dico che quell'amico era il conte in persona. Il conte? Il conte, la borsa parla chiaro. Sia chi si vuole, amico del notaro, vuoi in questo punto andare, in questa sera, stipular di mie nozze, io vo il contratto. Il notaro? Siete matto? Piove a torrenti, e poi... Questa sera il notaro è impegnato con Figaro, il barbiere, marita sua nipote. Una nipote? Che nipote? Il barbiere non ha nipoti? A cui ve qualche imbroglio? Questa notte i briconi me la vogliono far. Presto, il notaro, qua venga sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità. Non temete, in due salti io torno qua. Per forza o per amore, Rosina avrà da cedere. Cospetto, mi viene un'altra idea. Questo biglietto che scrisse la ragazza d'Almaviva potria servir. Che colpo da maestro! Ehi! Rosina! Rosina! Avanti! Avanti! Del vostro amante io vi vo dar novella. Povera sciagurata, in verità, colocass assai bene il vostro affetto. Del vostro amor sappiate che ei si fa gioco, insendo un altro amante. Ecco la prova. O cielo, il mio biglietto. Don Alonso e il barbiere congiuran contro voi. Non vi fidate, nelle braccia del conte Almaviva vi vogliono condurre. In braccia un altro che mai sento. Udite, a mezzanotte qui sarà l'indegno con Figaro il barbier, con lui fuggire per sposarli io volevo. Oh, scellerati, corro a sbarrar la porta. Corpo di pacco, l'avremo da vedere. Ilia, chiuditi presto, io vado via.